baccano, che succede? È la stampa, bellezza, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. Con i signori del Partito Democratico non voglio avere più nulla a che fare. E sulla RAI andremo avanti da soli, con persone diverse. Parola di Silvio Berlusconi. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. Tutti i quotidiani oggi riportano interviste, colloqui con il Premier, con il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sui temi più importanti, da quelli politici interni a quelli internazionali. Noi ne citeremo due o tre, diciamo, perché i giornali, i quotidiani danno tagli diversi. Quello che vi ho letto è il Corriere della Sera, è Marco Galluzzo che... riporta un lungo colloquio con il Presidente del Consiglio e concentra, diciamo, Galluzzo, il tema centrale, quello scelto, prescelto, è il rapporto tra il governo e l'opposizione, in particolare il Partito Democratico. Dice in questa intervista, in questo colloquio, Silvio Berlusconi: non mi importa nulla di quello che dice Veltroni. Il mio giudizio su Veltroni ce l'ho chiaro, non me ne può importare di meno. Ho deciso che questi signori dell'opposizione sono dei personaggi con cui non voglio avere niente a che fare. Vuole che lo ripeta? Con loro non avrò mai più niente a che fare. Sarei lieto del contrario rispetto a quanto dice il Foglio, cioè che si dovrebbero fare le riforme condivise, ma questa gente va contro l'interesse del paese, non vogliono il bene del paese, fanno solo la guerra al governo e sono pronti a farla con il massimo degli inganni. Diffondono notizie false su scuole e su università, si inventano contro l'interesse dell'Italia un non caso come quello degli abbronzati. Io vengo trattato come un bandito, come uno della mafia. Conclusione: non ci tratta. Punto e basta. Queste le parole secche di Silvio Berlusconi riferite a Marco Galluzzo del Corriere della Sera. E ancora, dice il Premier, io sulla bicamerale, a proposito, perché Galluzzo ovviamente, come molti giornalisti, gli pone il problema della bicamerale o dell'ipotesi della bicamerale, del lavoro che hanno fatto sia Massimo D'Alema che Gianfranco Fini. Lui replica: io sulla bicamerale non ho detto niente, non mi sono espresso, vorrei continuare a farlo, non ho niente da dire, non mi tocca, facciano quello che vogliono, del resto esiste un Parlamento, se ne occupino Camera e Senato, loro sono lì in Parlamento, facciano quello che ritengono meglio, proprio non ci metto nemmeno la testa, ho altre cose interessanti di cui occuparmi. E il tema è naturalmente quello del i rapporti internazionali, per esempio, dice Berlusconi, tra Russia e Stati Uniti, con la nuova elezione del presidente Barack Obama. In tutto il mondo io trovo grandissima considerazione, così conclude Berlusconi, tra i miei interlocutori. Poi torno in Italia, apro la televisione, non c'è uno spettacolo della RAI, anche di intrattenimento, in cui io non sia o preso in giro o oltraggiato. E altre TV fanno la stessa cosa. Per fortuna io continuo a fare il mio dovere e vado avanti pensando di fare il bene del paese. Quindi una, come dire, linea durissima da parte del Presidente del Consiglio. Il Corriere della Sera riporta anche altre notizie di grande rilievo. Per esempio l'apertura del giornale del quotidiano milanese è: embrioni, il Vaticano critica Obama. Ecco, siamo quindi, il Corriere registra il primo scontro potenziale e forse reale tra la nuova presidenza degli Stati Uniti e il Vaticano. La ricerca sulle cellule staminali embrionali non serve, mentre va aiutata quella sulle staminali adulte, e se Obama non seguirà questa strada, la Chiesa non sarà con lui, è l'avvertimento lanciato dalla Santa Chiesa, dalla Santa Sede, scusate. Baragan. La posizione della Chiesa è stata espressa ieri dal cardinale Javier Lozano Barragan e la sua è stata la prima voce vaticana a muovere le riserve al programma di Barak, che vuole modificare in senso permissivo le disposizioni di Bush in tema di etica. Questo scrive sul Corriere della Sera a proposito del servizio. Voglio ancora segnalarvi due cose sulle quali torneremo. Intanto un servizio di Luigi Ferrarella a proposito della giustizia: pochi cancellieri, ferme in procura 100.000 denunce contro ignoti. E poi il Corriere Un taglio basso riporta un delitto. Era la convivente di Paolo Caligari della dinastia del Mobile, uccisa nella notte nella sua villa di Manzano, Udine, con 3 colpi di pistola. Tatiana Turissi, 37 anni, è stata trovata senza vita dal convivente Paolo Caligaris, della dinastia di imprenditori del Mobile famosa in Friuli e nel mondo. È un giallo, nessun segno che faccia pensare a una rapina finita male, escluso anche il movente passionale. Ecco, tornando però su le notizie trattate, ne abbiamo ovviamente saltata una, che è quella dell'Alitalia, delle agitazioni che ci sono state, degli scioperi, delle polemiche durissime, ecco, e anche diciamo della politica che dovrebbe tenere il governo. E Libero torna, il quotidiano Libero torna sulla vicenda e critica anche il governo perché in qualche modo non è sufficientemente duro. Il governo ha paura, scrive Libero, spadroneggiano gli scioperanti. Dopo un avvio brillante l'esecutivo ha ceduto alle proteste di insegnanti e studenti e ora il personale all'Italia blocca gli aeroporti. Chi commette reati non viene punito. Forse il governo, i cui componenti sono talmente affaccendati da trascurare la realtà, non si rende conto. La gente obbligata a usare l'aereo per lavoro ne ha piene le scatole, scrive il direttore Vittorio Feltri, di essere in balia di vari scalmanati capaci di tutto, tranne di svolgere la funzione per le quali sono pagati, direi, benino. Nulla di personale. Dice a questo proposito, riprendendo le parole di Berlusconi, Berlusconi minaccia, saremo rigorosi con chi viola la legge, ma chi gli sta attorno non fa che somministrare del Valium e i soprusi sono inarrestabili. A Milano è stato multato un povero Cristo che suonava la fisarmonica per accattare qualche spicciolo. Chiaro, l'accattonaggio è proibito. Intanto gli sfegatati di Alitalia facevano il loro comodo. Caro Cavaliere, urge una sterzata, riprenda a fare il Berlusca e non dia retta agli anestesisti di cui si è circondato. I sondaggi li lasci a Veltroni, che non ha altro. Questo scrive Vittorio Feltri, che aggiunge, insomma, eravamo partiti bene, ma ci siamo risvegliati subito, con le foglie sono cadute anche le speranze. Segnali di cedimento si sono avuti con la scuola, Maria Stella Gelmini ci ha provato con grinta, ha introdotto norme sacrosante, ma poi, dice, insomma, tutto è stato, il Cavaliere le ha tenuto bordone, ma un discreto numero di onorevoli senatori di centrodestra ha arricciato il naso, i soliti rammolliti terrorizzati dalla piazza. Questo a parole altrettanto chiare Vittorio Feltri sul quotidiano Libero. I giudici non uccidano Eluana, così il quotidiano La Repubblica apre la prima pagina, appello del Vaticano alla Cassazione, sulle staminali no a Obama, e le naturalmente la frase che vi ho letto è virgolettata e dice l'intervento mentre riunite la Camera di Consiglio e la Suprema Corte, il Procuratore Generale, vanno accolte le richieste Beppino Englaro. E Stefano Rodotà si incarica di commentare criticamente il nuovo intervento della Chiesa. Di fronte a segni di un possibile rafforzarsi delle politiche dei diritti, la Chiesa interviene con durezza e con un tempismo preoccupante, scrive Stefano Rodotà. I giudici della Corte di Cassazione sono in Camera di Consiglio per discutere il ricorso del Procuratore Generale di Milano contro il provvedimento che ha autorizzato l'interruzione dei trattamenti per Luana Englaro. Nello stesso momento, scrive ancora Rodotà sulla Repubblica, il cardinale Barragan, presidente del Pontificio Consiglio per la Salute, afferma che saremo di fronte a una mostruosità disumana e un assassinio. Lo stesso cardinale ha espresso preoccupazioni per l'annuncio secondo il quale il nuovo presidente degli Stati Uniti si accinge a revocare il divieto imposto da Bush di finanziamenti federali alle ricerche sulle cellule staminali e embrionali, sostenendo che non servono a nulla. Colpisce in questi interventi un'aggressività di linguaggio che nega ogni legittimità alle posizioni altrui, presentate in modo caricaturale e criticate con toni sprezzanti e truculenti. Questo atteggiamento nel caso della Corte di Cassazione si traduce in un'assoluta mancanza di rispetto per le istituzioni della Repubblica Italiana da parte di un ministro di uno Stato estero. Si interviene proprio nel momento in cui la più alta magistratura sta decidendo su una questione della più grande rilevanza umana e sociale, sì che massimi dovrebbero essere il silenzio e il rispetto. Che cosa sarebbe successo se, in una situazione analoga, un qualsiasi governo straniero avesse definito assassino un giudice italiano per una sua possibile decisione? Questo Stefano Rodotà sul quotidiano La Repubblica, che riporta anche La Repubblica, vi dicevo, tutti i giornali praticamente ce l'hanno, un'intervista con Silvio Berlusconi, qui il tema centrale sono le TV, basta con le TV che mi attaccano ogni sera, se all'Italia è la sinistra che gioca allo sfascio, non cediamo, CAI farà assunzioni individuali. E poi Michele Serra invece si occupa di quella, diciamo, piccola ma sempre mostruosa notizia: danno fuoco al clochard che dorme sulla panchina. A Rimini l'uomo è grave ma si salverà. L'incendiario in letto sulla strada di Trento, cantava Fabrizio De André nella splendida e spaventosa Domenica delle Salme, rassegna degli orrori sociali in atto e in preparazione nei ruggenti 80. Raccontava di un clochard bruciato vivo dai giovanotti di Ludwig, usciti dall'inferno e dunque innamorati delle fiamme. Da ieri anche una panchina in Rimini, dimora abituale di un senza tetto italiano che si chiama Andrea, è annerita dal fuoco. Anche a lui incendiarono il letto, ora in ospedale a Padova, con il 40% del corpo coperto di ustioni, di piaghe e dolore. Questo leggiamo sulla Repubblica e c'è un commento molto molto duro e amareggiato di Michele Serra. Il quotidiano La Stampa, a proposito, tornando a Barack Obama, non si occupa soltanto del tema relativo agli staminali e alle critiche del Vaticano, ma Maurizio Molinari, dal corrispondente da New York per il quotidiano La Stampa, segnala un altro aspetto importante della futura politica internazionale del nuovo presidente degli Stati Uniti. Obama apre all'Iran alleati contro Al Qaeda. La nuova strategia per la guerra afghana coinvolge Teheran, parlare con i ribelli. Barack, quindi, molto diversa dalla politica fatta finora da Bush. Barack Obama pensa a un'offensiva militare massiccia per catturare Bin Laden, vuole coinvolgere l'Iran nella composizione della crisi afghana, affronta i timori del Pentagono sul ritiro dall'Iraq e mette alla porta i lobbisti di Washington. Scrive ancora il Washington Post, cita stretti collaboratori del presidente eletto, anticipando che la nuova Casa Bianca avrà in cima alla agenda di sicurezza l'Afghanistan con una strategia regionale. Sul fronte militare verrà aumentato l'ampliamento contro Al Qaeda, schierando 2 o 3 brigate in più per operare su un campo di battaglia che include anche le aree tribali del Pakistan, a fine di catturare o eliminare Osama Bin Laden, il vice al-Zawahiri e i loro colonnelli. È quindi un cambio davvero radicale comunque di strategia anche per la politica che, almeno stando a questo servizio, Obama vorrebbe fare nei confronti dell'Iran. Questo è importante, addirittura considerando alleato rispetto alla battaglia contro il terrorismo e contro Al Qaeda. Il quotidiano La Stampa si occupa anche di una questione molto, diciamo, interna nostra e di potere economico finanziario. Passera, Modiano e il mito, cioè Luigi La Spina scrive un articolo invece per spiegarci che cosa sta avvenendo nel gruppo Intesa San Paolo con lo scontro tra Corrado Passera e Modiano. Sì, dicendo, insomma, dietro questo scontro non c'è solo uno scontro di potere, ma ci sono anche, cioè, come dire, da parte La Spina dice, c'è una interpretazione politica da dare, perché l'attacco a Modiano, un manager sempre sostenuto dalla sinistra, viene giudicato anche come l'avvisaglia di un'offensiva che potrebbe persino arrivare ai due presidenti del gruppo, Enrico Salza e Giovanni Bazzoli, di simpatie notoriamente anti-berlusconiane. Cioè la tesi di Luigi La Spina è che Corrado Passera, che prima era considerato un banchiere vicino al centro-sinistra, con l'operazione all'Italia si sarebbe spostato più verso il centro-destra e lì sarebbero scoppiate le polemiche e le battaglie interne al gruppo bancario. Ora, se vogliamo rimanere, visto che ci siamo avvicinati, diciamo così, ai temi dell'economia e della finanza, non possiamo non trasferirci al Sole 24 Ore, che ovviamente apre su temi ben diversi dagli altri quotidiani generalisti. Borse giù, Concredito e GM. Piazza Affari cade del 6,2%, Intesa meno 16%, non darà cedola per cassa. Ecco, queste sono le notizie. La prospettiva di una imminente recessione globale ha pesato anche ieri sui mercati. Le borse hanno perso molto terreno, in particolare in Asia. Avete sentito i GR, quindi anche le novità. Stamattina Tokyo apre negativamente, ma voglio segnalarvi altre due cose di grande interesse. Intanto l'editoriale del Sole di oggi è Manifesto per un fisco moderno e ragionevole, e ne scrivono Mauro Meazza e Salvatore Padula: un fisco più ragionevole non per noi ma per tutta l'economia. È un invito cristallino quello giunto ieri dalla conferenza annuale dei dottori commercialisti riunitisi per la prima volta a Roma dopo la nascita dell'albo unico. Ecco, è da lì quindi che viene l'idea del Manifesto per un fisco moderno e ragionevole. E proprio oggi, dietro la notizia, alle 8.30, la trasmissione è condotta da Gianfranco Fabi, il nostro direttore, saranno ospiti Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili. Proprio credo per discutere di questo e di altro, perché è da lì che viene quella iniziativa. Ma voglio anche segnalarvi una cosa curiosa ma di grande interesse che c'è sul Sole 24 Ore in taglio medio-basso. Investire in azioni, sì, ma puntando sui grandi vini. C'è di che stupirsi, scrive Nicola Dante Basile sulla prima pagina del Sole. Il vino, il grande vino italiano, può essere la risposta giusta su cui investire, starsene tranquilli per il futuro. A dirlo in questo periodo di borsa in picchiata sono da un lato gli indici comparativi di Mediobanca, quindi non l'ultima banca, e dall'altro la saga dei négociants bordolesi, i quali, contrariamente alla nuova Marianna che volta le spalle all'Italia, hanno deciso che è questo il momento di investire nel grande vino della penisola. È un fatto che l'indice elaborato da Mediobanca svela che 100 euro messi in borsa nel 2001 valgono oggi 85, mentre chi ha acquistato i titoli delle 35 vinicole quotate nel mondo, nessuna italiana, oggi valgono 160 euro, con una crescita annua del 12,9%, pari solo alla performance dell'oro, ma quasi tre volte più dell'incremento del valore degli immobili. Beh, davvero una notizia, oltre che curiosa, di grande interesse, perché nessuno forse, se non gli addetti ai lavori, avrebbero immaginato questo tipo particolare di investimento rifugio a questo punto. Ecco, sul Sole 24 Ore anche Monica D'Ascenzo, che parla dei sinonimi della recessione. Dear employee, you are simplified, suona di certo meglio del celebre You Are Fired, cioè che Donald Trump gridava in faccia agli sfortunati partecipanti al reality finanziario, e cioè si parla del licenziamento, insomma, dice l'enfasi è diversa ma la sostanza non cambia. Semplificato è solo uno dei nuovi termini con cui le imprese americane stanno cercando oggi di addolcire la pillola delle ristrutturazioni aziendali, e questo dicevo sul Sole 24 Ore. Ora, il Sole 24 Ore invece si occupa sì di in finanza e mercati di banche, ma di Intesa in un altro senso. Il gruppo Intesa tiene alta la guardia, via il dividendo in contanti, passa niente aumento di capitale, in borsa però meno 16,8%. Questo in finanza e mercati. Ora, se ci trasferiamo sul Giornale, ritroviamo però i temi che abbiamo trattato finora, ma in particolare Michele Brambilla, editorialista del Giornale, invece si occupa di Grillo e scrive: povero Grillo sul caruggio del tramonto, schiaffo sul referendum. A poco più di un anno dai fasti del Vaffadei, Beppe Grillo pare aver già imboccato il viale del tramonto, anzi il carruggio del tramonto, visto quanto è angusto il passaggio verso l'uscita di scena senza più folle oceaniche ai dati. La Cassazione ha bocciato i suoi quesiti referendari, e non perché abbia scovato qualche cavillo per bocciarli, ma perché le firme presentate non bastano. L'uomo che doveva raccogliere attorno a sé il popolo italiano, scrive Michele Brambilla sul Giornale, non ha raccolto neanche 500.000 di firme. Un mesto eletto e lento declino cominciato con i vaffa che Grillo si è beccato in gran quantità sul suo stesso blog, quando grazie a Visco si è scoperto che la sua opera moralizzatrice gli rende 4 milioni e passa di euro l'anno, quando poi qualche giorno fa il masaniello genovese aveva cercato di cavalcare la presenza di studenti a Bologna, si era sentito rispondere, anzi intimare, di togliersi dai piedi. Questo sul giornale che titola invece: adesso fermiamoli, demoscopia per il giornale, 6 italiani su 10 chiedono interventi del governo, il premier, gli scioperi selvaggi paralizzano l'Italia. Adesso fermiamoli, vi dicevo prima dell'interruzione, questo è il titolo del quotidiano Il Giornale, e il giornale dedica ben 3 pagine alla crisi dell'Alitalia, agli scioperi selvaggi, chi vuol fermare l'Italia. C'è un titolo: Maroni annuncia la linea dura, non tollereremo l'illegalità, il ministro pronti a tutto per difendere il diritto a viaggiare, la polizia identifica i ribelli, inchiesta della procura di Roma, e ancora caos, bagagli, risse e anarchia, Fiumicino precipita negli anni 70. E poi, come vi dicevo prima, c'è un'inchiesta, una ricerca demoscopica della demoscopia, 6 italiani su 10 lo Stato blocchi, chi paralizza il paese, sondaggio per il giornale, per il 68% i sindacati non rappresentano più i lavoratori. Questo e poi ancora un articolo di Pietro e Ferrando, i capi popolo, ecco i professionisti della protesta. Il partito del paladino dei PM appoggia uno sciopero illegale. Il leader trotskista dice: sono l'unico presente a ogni presidio. Questo il quotidiano Il Giornale. E sull'argomento di Alitalia, ma non solo su questo, il quotidiano Il Riformista intervista invece Massimo D'Alema, rivolta suicida, queste sono le parole usate da D'Alema nell'intervista fatta al Riformista. La guerra di Alitalia, l'esponente PD critica il sindacalismo corporativo e Berlusconi, il governo sceglie la linea dura, passeggeri infuriati, ci vuole l'esercito. L'intervista di Massimo D'Alema, che come voi sapete è protagonista assieme a Gianfranco Fini di un'ipotesi di nuova bicamerale, di riforma, diciamo istituzionali, grandi riforme condivise, parla appunto anche di questo. Dice D'Alema in questa intervista: senza intesa il federalismo non va lontano. D'Alema a Bossi: ci vuol poco a cancellare certe riforme, ma non è vero che io e Fini siamo contro. Su ASL ho sentito solo stupidaggini, si discute anche di Alitalia, di effetto Obama e della vittoria di Dell'Ae, non parliamo di nuovo conio o modello di Trento. Il Partito Democratico cerca accordi sia col centro che con la sinistra. Sulle alleanze ormai ci siamo corretti. E insomma, dice, non è vero che c'è uno scetticismo crescente da parte sua e di Fini sul federalismo fiscale? Tra secolo. Il senso del seminario di Asolo, dice D'Alema, è fin troppo banale. Io e Fini all'unisono abbiamo posto la necessità che per una riforma complessa come il federalismo fiscale, comporta una delega molto ampia al governo e fin qui anche abbastanza vaga, vi sia uno speciale coinvolgimento del Parlamento che deve seguire passo passo l'esercizio della delega. Anche la Lega ha bocciato l'idea della bicamerale. Innanzitutto vorrei ricordare a Bossi, dice D'Alema nell'intervista Riformista, il quale dice che faccio queste proposte in quanto dispiaciuto perché la riforma federale l'hanno fatta loro e non noi, che è vero il contrario. Loro sono adesso impegnati a dare norma attuativa della riforma costituzionale fatta dal centro-sinistra, scandisce. E fu uno dei risultati della bicamerale. E questo ancora, sulla vicenda Italia abbiamo già sentito, dice, dunque condivide il pugno duro dell'esecutivo contro lo sciopero selvaggio, ma il governo c'entra poco, è innanzitutto la CAI che deve trovare soluzioni che riducano il grado di conflittualità di questa rivolta anarchica. Questo vi dicevo sul Riformista. Ecco, sul Riformista, a proposito di crisi finanziaria, il Riformista ricorda in prima pagina, lo ricorda anche nei titoli di apertura il Sole 24 Ore, che una delle crisi americane è la General Motors, il gigante automobilistico. Ora GM vale come nel 43, disastro a Wall Street per il colosso dell'auto, mentre a Milano Banca Intesa perde il 16%. E poi scoppia la bolla dell'estate hard, Lagarde, il PM su Berlusconi dice: sedurre un senatore non è reato. Da quell'inchiesta nacque il caso Carfagna. Questo il quotidiano Il Riformista. Il messaggero invece punta su un Berlusconi diciamo più operativo nei confronti della società civile, perché il titolo d'apertura è: Berlusconi aiuti ai bisognosi per le imprese, IVA di cassa e aumento del monte prestiti. Come vedete la concentrazione dei discorsi che ha fatto Berlusconi in questi ieri sono su un altro tema: aiuti per Natale per i più bisognosi e per le imprese, IVA di cassa e aumento del monte prestiti sono alcune delle misure che il Presidente del Consiglio annuncia in un colloquio con il Messaggero, soffermandosi anche sui principali nodi di politica estera e interna. Anche lui, come vedete, anche il Messaggero ha preso e pubblicato le parole, le conversazioni, i colloqui che Berlusconi ha concesso a tutta la stampa italiana e anche internazionale. E il fare nelle regole, Malagrotta sequestrato il gasificatore, non aveva il certificato antincendio. Questo è il titolo che leggiamo sempre sul Messaggero. Si facciano le opere che servono, ma nel rispetto della legge, scrive Nino Cirillo. Qui non siamo a Chiaiano, qui non si dice no a tutto. Qui a Malagrotta invocano solo il rispetto delle regole. Che si faccia quello che si deve fare, rifletteva Gioia, spingendo carrello e carrozzina sul piazzale della Lid di Massimina. Che si realizzino gasificatori e quant'altro, ma come può accadere che a due giorni dall'inaugurazione manchi il certificato antincendio? Questo sul Messaggero. Infine voglio segnalarvi il Manifesto. Il Manifesto pubblica una foto di Papa Ratzinger: castigo di Dio, sospendere l'alimentazione, l'idratazione è una mostruosità e un assassinio. Sul caso di Luana Englaro il Vaticano prova a condizionare i giudici della Cassazione, da ieri in Camera di Consiglio per la sentenza. E sulle staminali attacca Barack Obama. Questo. Poi c'è anche una vignetta di Vauro a proposito di quella mostruosa notizia, abbiamo sentito, dell'incendio del Clochard: hanno dato fuoco a un barbone in strada, e pensare che c'è ancora qualcuno che si oppone agli inceneritori. Questo è quello che leggiamo sul Manifesto. Il quotidiano il Foglio invece Circo Massimo, il segreto del grande fascino di Cacciari e il discorso verso chiunque, anche i piccioni. Sì, c'è un servizio tutto dedicato a Massimo Cacciari, sindaco di Venezia, che come voi sapete ha rimproverato dei passanti che davano da mangiare i piccioni in piazza San Marco. E poi ancora Red and White, la questione europea ridivide il Partito Democratico e rilancia il sogno neocentrista, ora sbuca il lodo Tabacci. E con questa segnalazione dal Foglio io ho finito il mio tempo, vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento domattina.